stazione Pinocchio da Valle Doria. Arrattane nome, signor Bacchi, buonasera. Buonasera, Valle Doria, questa parte. La stazione Pinocchio da Valle Doria, paese delle angurie e dei meloni. Avendo i meloni già a mente. Sono i meloni, meloni, angurie da Valle Doria. E voglio dare anche un po' alla stazione Ronzino, non detto Marino, anche Marino, si ascolti la stazione Pinocchio in Valle Doria, venditore di anguria e di meloni. E già, signor Bacchi, io sono andato a farsi una rumida. È sicuro, sicuro. Si è travagliato. Sicuramente già l'ha dormito. A me mi sembra che sia in piscina, e tu gli vanno soli. E tu l'hai, cosa ti posso dire? Se che fosse le milioni, io pure credo di comprarci una piscina portatile. ti conviene, mi. Ma io spagnolo e palatine, porta. Ah, tu già ti ha detto, tu sei acciarato, mi. Tu comprisci là, io non ci comprisci nulla, è scritto tu antiparato. Forse si abbassi un paio di chili di roba, da cocremo. Beh, Bacchi, buonasera a tutti, Buonasera, Zinco. E tu ti ho sparato, sì, abbassati un poco, se no vengo di dargli una cosa, vai per la pena, mi. Babbo, ciao Gio Maria, ciao Patrizio e ciao Ettore Squalo. Sì, Ettore Squalo, sì, ciao Mano, andiamo e andiamo. Attenzione, signor Gio Maria, avanti. Buonasera, signor Ettore, buonasera, signor Bacchio. E buonasera anche a Manuele, e beh signor Bacchi, a te è caldo in campagna, o fresco c'è? C'è la Giovanni, meravigliosamente bene, anche le foglie degli agrumi ne stanno scendendo, per quanto c'è fresco. Hai te, detto, hai te la Bacchisio. Purtroppo. Stanno già in campagna per un bel gallo e non si sente il sa, ma anche in casa si butta. Mi pare in campagna per caso Mattesi, già lo gridi là. Un calcio passa dappertutto, ma la giusta. Casi per Emanuele, va bene, è dove aspetta fresco. Sì, fresco, oi. Sono più sciumenti in gioco, senza giacchino in gioco, per carità, non si può scanno. Però abbassami le voci, mi fai sogno. Fai tore. Te l'ho detto io, mettiti sotto l'albero della pera, o quella del melograno. Ma manco vai più fresco così, vero signor Bacchi? Sì, voglio più fresco, appena muoio. Signor Bacchi, tu le butti la rete. Ma i corracci, oggi butto la rete. E però ne subisco come pincente, prende i caroni e ne prende fare i fulli. E usciti, non rimani niente, rimani anche tu. Domani, da domani mattina sentirai più fresco, meno caldo. E fichi c'è mani con il coso della tua, il polmasso della tua, usciti solo. Scheso l'altro giorno, ho visto tutti gli alberi delle agrumi accaramagliati, sono accaramagliati, non ce la devo pure, non si arrivano. Ma c'è perché l'impianto. E caldo di 2 ore che cosa se mi prendeva. Nuzza e prendi carole, sta asciutto, domani mangiando si vuoi lì a Eva, se non nuzza. Infatti fai così, Bacchi. Invece hai pure il cuore, sono tutti meglio fresco, perdono. E non che di fronte va giù il burro di la viga. Che se del furo che l'avevamo tagliata, se esce di Roma a te ci la viga. Certo. su giù e a chi gli arriverà, già l'innaffiaggi sempre giù. Noi lo faremo a innaffiare, cazzo, ci che ridù invece sono ben innaffiati e già cresciti subito. Siamo, ora che non era poi i banchini. Ah no, vabbè. Vai. È ancora in nuda, ancora in fase calcio, ma chi? Domani è la seconda di la soletta di oggi, domani le fate calcio. Così si capa masciolino e boh. Ma è male. Ma mi posso un buco sotto terra, ma mi posso camminando sotto. Per carità, riprende Emanuele, dai, già sono i corricchi. Ehi, vabbè, dai, io la pena l'ho fatta poco fa, l'ho fatta. Adesso l'ennato un altro pochettino, almeno si alza un po' anche l'antenna, un po', e ci vuole, dai, ogni tanto bisogna innaffiare. Fa così, Emanuele, fa così, innaffia sempre, ma la devi innaffiare tu, invece di andare a fare più in bagno, vai, la fai lì. Andare, vabbè, sta facendo il caldo comunque, Bacchi, a parte gli scherzi. Ero poc'anzi in giardino, seduto, ma manco un filo d'aria passava. I noghi, non ti dico Luca che qui vai, i noghi non entro. Senti, ti dico un po' io, tu devi pensare, non so come altra sera in campagna, ero cancello, era 41 gradi. Ma lo posso immaginare, stava oggi 40 gradi arrivava, domani io mi auguro che domani sia di manco, anche se no mi si devo pulire una mazza piena leva in giacchino, quando è caca mi si curo dentro. Avanti a freddo, mi si curo dentro, non è caccato che entro in due, lo caro le due che caldereva, avanti dopo. Signor Bacchì, almeno a parte di Degoso, di Armando Alghero, a parte di Degoso, di Nuvi, Ossi, tutto vogo. Se avete portato ogni piede il vogo, si può andare a riservare. Se vuoi lasciare bene, se sai niente. Tutto intorno vira via, mi fa gira. Infatti, se compagni, non so, molto dopo. Montalvano, si vede, tutte queste montagne, tutto affumicato, no? Viene proprio il fumo. Prova a battere le nubi, che ne vede ancora. Bisogna essere diviso in giro. Di fissi, usini, questo gruppo che è arrivato vicino in Chivia, nel gas. Ripeto, se un poco sarebbe potuto stare in piedi, invece poi lo deve sterpare, avrei fatto una figura. Oppure la cappella la presentazione a pure uno sopra. Purtroppo, gli incendiari vogliono acciappare e poi ci vuole guelli. Allora, bisogna fare proprio così. Vediamo un po', sempre signor Marino, ci sei? Ha detto che è in piscina per prendersi la doccia. Ma te, Ginco, è così, se ti vuoi cogliere dentro la vasca. È sotto la vasca, se può, niente, non dentro la vasca, sotto la vasca. Ma chi zio, buonasera. Via Marino, stai, hai cercato, buonasera anche a me. Avanti. Ok, non so chi sei, se pensa, buonasera a tutti. Bene stati, bene brutti. Avanti, da chi si è girato? Ehi, come mai ti sei abbassato, marito? Tutta la volta ti sei abbassato. Tutto di colpo sei parito. Avanti, Tore. Buonasera, Marino. Quasi Eugenio, è un portatile. Se basso del radio non ti ascolto. E oggi è più basso del radio. Boh. Se basso del radio, poi abbiamo uno stronzo in FM che ti sottomodula e ti disturba. Ora cerca di migliorare le situazioni. Vediamo, Manuele, dai, Manuele, metto il Marino. ma chi non sento nulla, c'è quello in FM. Tore, vai in FM, mandalo via colui che ci sta disturbando, va. Sì, Marini, cosa? Ma noi non si fare dove sta lo bucco. Non rispondi. Oh, Marino, spegni tutto, schiudi tutto, Marino, che hai parlato troppo, Oh, Manuele, buonasera, ben alzato, davvero, in cosa tu sei? Male Zionica, croccante era, no? Avanti, Tore. Ti l'ha giù mandata, non le vedi che ti l'ha giù mandata, bella croccante, mi ha giù mangiato un bel panino con la porchetta. Ora mi ha giù abita con spezzatino di gambe, la faccia duia. Ah, la giusti. Il vostro ragazzo vizioso, avanti Torricino. A Tore non impiace queste cose. Lo so. Tore avanti, buonasera per il fatto. Tore! Tore, sei da piaggio l'albero dei fichi. Oh, Gio Maria, buonasera anche a lei. Tore oggi. Oggi Tore c'è la malattia di Enrico, non sente. Avanti, da chi? Tore è andato a coso. A fare ciò che mi nuzza. Fare e non risponde, oppure sta guardando il telegiornale, perché ho il telegiornale adesso, se poi ci dirà tutto il tempo come va. Avanti Tore, ci sei? Già ci sono io, gli altri che non mi ascoltano. Noi non ti ascoltiamo, solo c'è quello di FM che ti disturba. Vai in FM Tore, mandalo via, dimmi che ci stai disturbando, vai. Io dico in FM non ascolto, boh. Ti copre, lo sento io, ti copre proprio, No, ma che si sente? Ma a me non si intende. Tore, a te e a tutti, però le fermi non lo sento. È chiuso? Lo sento io in FM, boh, solo io lo sento. Ciao speciale. Avanti, Gio Maria. Ehi, ciao Maria, buonasera. Già lo sai, io non è passato da là. Cosa ti dice? Gio Maria, avanti. Riprendete voi, dai. Alla finale già entro a salutarvi. Scusate, Maria. Ma chi è questo? Una portante, vabbè, non c'è neanche occhiaio, non vedo, non è che chi c'è o non c'è, sono senza occhiaio, ma è sempre un cieco di giovento, boh. Ma noi è avanti. Sì, ma cosa vai di bisogni, Ighivio, Mari? Tu intendo un poco di bisogni. Ma c'è la buona cazzata oggi. Speciale, ma chi? Come sto volendo, Emanuele? Ma c'è un fratello Tore? Era bisogno di un Tore che non niente. Ma Maria, l'hai sentita Gio Maria? No, poco fa l'ho sentito, ma lei si lo manda il microfono e mi ha risposto. Gio Maria! Ehi, Gio Maria, ma non mi senti? Non mi sento, boh, sarà... Che casino, c'è qualcuno che mi sente, guarda, io lo sento forte. Chiaro che non mi sente. Ha detto che venga quello in FM, che lo sente forte. Io non entro nessuno in FM. Aspetta, vado io in FM, voglio vedere se mi sente, aspetta. Ma chi si avanti? Ma lui che si abbassa poco il microfono, non riesco a capire, mi prende il sole, Luca. Troppo squillante. È il microfono originale, ma chi? Non posso abbassare il microfono. Ma c'è la potenza, ma sei saturo, Emanuele, non fa ascoltarti bene. Aspetta un attimo, no, abbassami chi. Vedi un po' se mi ascolti adesso. Adesso sei tu, sì. Adesso va benissimo. Tore, avanti. Sì. Adesso l'ho sentito quello in FM. Che arriva forte, arriva. È pagisso, ma gli si abitano i buruetti che c'è un buru, forse nel buru. Infatti, non è che noi non risolviamo. La pandemia, la propagazione, cioè Marino, dove sei? Ma cos'è Marino? Non si intende più. Marino. Adesso questa qua torre ti supera, ti supera al 100%, boh. Vai FM, sto mando via, boh. Aspetta un attimo. Ari. Oh, Manuel. Cosa qua incazzato, dai, non era ora lì. Hai visto un po' di macello? Fate un po' il casino, non se ne vanno via, cazzo, boh. Se andate in PMR si sta bene, c'è una radio, boh, io non lo so, ci avete la radio per andare in PMR e non banditi. Non ti piace, Emanuele? Non c'è, oh, Mari. Non ti piace questa radio? Sembra un casino, sembra niente di propagazione che si fa nulla. Ho detto, andate in PMR, ci avete una radio per andare in PMR e non banditi mai. Abbiamo dire ai signorini, io posso anche andare, non mi aspetta. Ci sono questi qua in FM, stanno arrivando 9:20, 9:25, mi sta coprendo, dopo pochi sono. Ma in PMR non vi potete andare? Oh, ma chi? PMR, puoi andare? Sì, PMR, devo piantare tutto. Mette una scatola, Ci siamo messi dentro una scatola, sono arrivati dai poveri, ho smontato tutto dentro una scatola. Devo cavarnirlo, oppure scendere giù e prendere un portatile. Ma è ora di quasi di chiudere per me, dunque la scala non la faccio neanche se mi pagate. No, no, ma ti dai, ci prende troppo tempo, sono già le 8 e troppo tempo, io sono davanti. Torre avanti, buonasera. Signor Marino, tanto che buonasera, e no, che la faccenda sta mettendo critica, fa giù mai manco d'accordo. Tu a me non ascolti, ma neanche io ti ascolto qua. Dove ti ripeto, quando sta 9:20 allora, 9:20, 9:25, boh, ma già un prego. Cosa vuoi fare? Questi sono abbastanza forti e se ne vengono un 23 se ne vengono a rompere le cattoli. No, tu sei il capo, vai in FM, devi di spostarsi, vai. Se vado io non mi ascoltano questi qua. Cosa gli vuoi fare? Tanto comandanieri, sono più forti di noi che hanno la propagazione in un da va. Però signor Bacchi. Sicuro, è propagazione, certo, propagazione. Io non ho problemi, ascolto bene Marino, ascolto bene a te, a Emanuele, a tutti ti ascolto bene. Poi quello che non ascolto dovranno scusare. A te sei stato uno con il 9:30, poi sta aumentando, stanno avanti Emanuele. Lo so Mari, c'è un bel di preparazione, arrivano forte veramente, arrivano forte veramente. È un bel di propagazione. Vai, to. Ma c'è dove è pulita la frequenza? Nel 45. E vai 45, per me io non so problemi. Andiamo sui 45 e non lo so se Bacchisio ce l'ha. No, io ce l'ho da quando sono nato. Il 45. Il 45, via. E se mi dice ma chi già c'era? Da quando sono nato? 45! Ma noi vai sul 45, vai! Ehi! Chiamami Emanuele, io non lo so! Marino, Marino! E non ve ne su! Ora, Marino! Ah, ci sei tu! Ora, ora, ora! Attento, Marino! Cucu! Attento, Marino! Attenzione Marino!